In due modi. Il primo modo è la grande ignoranza, la grande superficialità, la mancanza di conoscenza, che non è da sottovalutare, ma naturalmente in una persona che ricopre questi incarichi, in queste persone l'ignoranza non è ammessa. Cosa vogliono fare? Dove vanno a parare? Questo è il vero nodo. Ecco, la considerazione credo che sia questa. Esiste un fastidio per il patto costituzionale, esiste un fastidio per la storia della Repubblica, per come è nata, esiste un fastidio per l'antifascismo, che non hanno mai accettato, che non hanno mai capito, che non sanno cosa voglia dire, che non gli interessa. Esiste invece un bisogno smodato di sminuire le responsabilità del fascismo. Ora le leggi del 1938 antisemite sono un errore gravissimo, un'altra volta si ammette qualcos'altro, ma complessivamente il fascismo non viene messo in discussione. Paradossalmente, ma non paradossalmente, di fatto era andato più avanti Fini quando disse che il fascismo era il male assoluto, un termine generico, non storico, però almeno aveva affrontato la questione del fascismo. E questi no, e continuano a eludere questo nodo, per cui lanciano continue provocazioni, fanno battute grevi e sbagliate, poi tirato il sasso nascondono la mano, ma intanto continuano a erodere nel senso comune la qualità antifascista della Repubblica. Infatti era proprio questa la domanda che ti volevo fare, queste continue uscite, come dire, modificano un po' il senso comune delle persone rispetto anche a come è andata la storia? Certo, è ottenere un effetto marmellata per cui tutto è uguale, anche i partigiani hanno fatto delle cose non belle, anche il fascismo ha fatto delle cose buone, e questa continua proposta di questi temi che mira a dare un'idea di un passato non importante e non significativo per il nostro presente, cioè in sostanza alla lunga questo vuol dire svincolare questo paese dalla sua storia costituzionale, che è storia antifascista in senso stretto, ma non antifascista perché soltanto contro il fascismo, ma antifascista perché attraverso la lotta contro il fascismo, attraverso la lotta contro ciò che il fascismo aveva modificato in questo paese, si costruisce il paese moderno, si costruisce la democrazia costituzionale, eccetera eccetera. Togliere quel passato in questo modo, banalizzandolo, rendendolo tutto uguale, significa proprio distruggere le radici della Repubblica. Ecco, una cosa invece nel merito delle tesi alla base di queste esternazioni, in realtà non sono nuove, fanno parte di un bacino revisionista, come dire, consolidato? Sì, più che revisionista fanno parte di quella storia che possiamo definire anti-antifascista e che inizia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia nacque un partito che si chiamava L'Uomo Qualunque e che sosteneva che la persona normale era schiacciata, era vittima delle violenze politiche o delle scelte contrapposte. Fosse il fascismo, fosse la Repubblica, la persona comune era sempre oppressa dallo Stato, eccetera. Ecco, è una sorta di qualunquismo quello che oggi loro propongono, qualunquismo che infatti non a caso è sempre stato di destra. Propongono sempre l'idea che ogni cosa sia in un qualche modo insignificante, non importante. Nemmeno le loro cose, tra l'altro, vengono sminuite via via. Ma in realtà dietro, a mio giudizio, c'è un disegno preciso da parte dei più svegli. Altri sono veramente così, dicono veramente cose banali. Il disegno è quello di smantellare quella cultura. Revisionismo sì, quello dell'anti-antifascismo, quello del neofascismo che ha prodotto una letteratura piuttosto estesa, per fortuna poco nota, ma piuttosto estesa su queste cose. Alcuni di questi luoghi, il primo che è stato tirato fuori anche da Senaldi in questi giorni, ma quello è un attentato contro degli innocenti. Allora, la resistenza è guerra di guerriglia e la guerriglia è fatta di attentati. Potevano gli antifascisti, i partigiani, che erano dei civili clandestini, senza mezzi, fare la battaglia nobile in campo aperto, la battaglia napoleonica, ma siamo matti? La guerriglia è la forma di guerra popolare, quando un popolo è oppresso, che si esprime attraverso azioni che colpiscono il nemico nel momento in cui il nemico è debole, distratto. perché in campo aperto ovviamente non sarebbe possibile. Mettiamo contro i carri armati tedeschi i partigiani, evidentemente non è possibile. È possibile invece colpirli, tenerli sulla corda. Fanno finta di non avere capito questa cosa, che invece è fondamentale. Quelli di via Rasella erano poliziotti con le uniformi delle SS, dunque nemico, punto. Si colpisce il nemico. Ovviamente non ci sarebbe potuti scontrare in campo aperto con un reparto di quelle dimensioni, da un punto di vista di un movimento clandestino come il movimento partigiano. Però si poteva compiere un attentato, che è guerra di guerriglia. E per questa guerra di guerriglia, quindi, si compiono questo tipo di azioni che erano desiderate e concertate da tutti. Churchill, premier inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, sosteneva che la resistenza era la quarta arma dopo l'esercito, la marina e l'aeronautica militare. La quarta arma perché colpisce il nemico dall'interno. In Italia, un terzo delle divisioni che occupavano il paese, invece di combattere contro gli alleati, gli anglo-americani, erano tutte occupate a difendersi da queste continue punture di spillo. Certo, c'è qualche attentato più grosso, come quello di Via Rasella, c'è qualche attentato minore, far saltare un camion di benzina, ma ognuna di queste è una di quelle punture di spillo che hanno fatto sì che la vita dell'occupante tedesco fosse impossibile. Loro non sanno niente di guerriglia da una parte, ma dall'altra parte vogliono anche sminuire questa che è una grande storia che noi abbiamo.